Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Subito alla mail unabusoalgiorno@radio24.it. Volete poi divertirvi con temi di legalità, criminalità organizzata, diritti violati, insomma le mie passioni? Bene, vi invito a visitare il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, oppure andate in un motore di ricerca, digitate blog di Roberto Galullo e vi appare magicamente il mio blog. Mi farebbe piacere ricevere suggerimenti, segnalazioni, critiche e anche insulti. Ne ho già ricevuti parecchi e devo dire mi diverto moltissimo, anche perché rispondo in maniera educata, sia ben chiaro. Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, credo che lo capirete facilmente. Buonasera. Vi ricordiamo che è scaduto il termine per il pagamento del canone RAI. Coloro che non si fossero ancora messi in regola sono pregati di farlo, perché il mancato pagamento del bollettino potrebbe essere causa di un malfunzionamento dell'apparecchio televisivo, di guasti, distorsione delle immagini o interruzione della stessa. Insomma, una cattiva emissione televisiva. Ecco, sentite, per cortesia, trovate un altro modo per convincere le persone, perché io così ho un cerchio alla testa, in più sono anche brutta. Ricordate di rinnovare l'abbonamento entro il 31 gennaio. Rai, di tutti, di più. Bene, peccato non vedere anche le immagini di Anna Marchesini, del trio Lopez, appunto, Marchesini e Solenghi, che negli anni 80 pubblicizzava sulla Rai il pagamento dell'abbonamento, quindi il pagamento del canone Rai. Sapete tutti che domani, sabato 31 gennaio, scade appunto il termine per pagare l'abbonamento. È l'ultimo giorno per recarsi all'ufficio postale e comunque regolarizzare la propria posizione. Al netto dei tantissimi imbroglioni che cercano di non pagare il canone Rai, ricordiamolo, è un obbligo di legge, adducendo il fatto che non posseggono una televisione, ebbene, ce ne sono moltissimi che invece effettivamente la televisione non ce l'hanno più, anzi mi correggo, il televisore, altrimenti poi c'è qualcuno che mi scrive e mi dice: ma come parla? Hanno ragione. Allora, che non ha più il televisore o che comunque non l'ha mai avuto e non vuole pagare il canone Rai, spesso viene perseguitato e indotto magari a pagare anche se il televisore appunto non ce l'ha. È il caso ad esempio della nostra radioascoltatrice, devo dire abbiamo ricevuto molte di lettere in questo senso, Francesca da Bergamo. Buongiorno Francesca. Buongiorno dottor Galullo, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Allora lei ci domanda: ma come si fa a disdire un abbonamento alla televisione? Lei che passi al computer? Allora, non trovando le indicazioni sul sito della RAI, perché ci sono solo le modalità per abbonarsi, ho utilizzato i suggerimenti dell'Associazione Consumatori e ho inviato una raccomandata con la comunicazione di donazione apparecchio televisivo e pertanto chiedevo la cessazione dell'abbonamento. E uno si aspetta e dice: vabbè, nell'era della telematica vado ancora per raccomandata. Comunque la faccio. E che cosa accade invece? Che è arrivato il bollettino per il rinnovo e proprio fresca di questi giorni è arrivata una lettera come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dello sportello abbonamenti alla televisione. Ecco, quindi diciamo così che, lo ripeto ancora una volta, nelle condizioni della nostra radioascoltatrice Francesca da Bergamo ci sono migliaia di persone. Detto però anche il fatto che ci sono molti che ci marciano, vero Gaetano Viciconte, nostro esperto amministrativista, avvocato di Firenze, buongiorno. Buongiorno, questa è una materia ormai ampiamente dibattuta e affrontata anche dalla giurisprudenza. Ecco, io infatti le chiedo, intanto, sì, si è comportata bene la nostra radioascoltatrice? Ecco, mi piacerebbe sapere se aveva indicato nella raccomandata il nome del donatario, cioè del soggetto a cui avrebbe donato questo apparecchio televisivo. Glielo domandiamo subito. Francesca, lo ha fatto? Sì, l'ho fatto, perché dal modulo bisognava specificarlo. Benissimo. Gaetano Viciconte? Ecco, a questo punto il donatario avrebbe dovuto attivare in proprio un nuovo abbonamento alla televisione che avrebbe sostituito quello della nostra radioascoltatrice, della donante sostanzialmente. Esatto. Anche perché il canone RAI cosiddetto è un canone che ha una natura tributaria e si può dire che sia una vera e propria imposta, ormai ci sono sentenze anche della Corte Costituzionale al riguardo. Quindi il presupposto impositivo, cioè la necessità di dover pagare, è dovuta al fatto che l'utente possiede in qualche modo un apparecchio atto a ricevere trasmissioni radiotelevisive. Ecco, avvocato, però a questo punto la nostra radioascoltatrice, ripeto, come lei, migliaia di persone ha detto allo sportello e all'ufficio comunque di Torino: guardate che io questo apparecchio televisivo non ce l'ho più, e invece continuano a chiedergli conto. Come deve comportarsi? Ma direi che qui l'utente ha sicuramente ragione se ha comunicato il nome del donatario, come sembra aver fatto, e se il soggetto che poi ha ricevuto questo apparecchio radiotelevisivo ha attivato un nuovo abbonamento. Se non lo ha attivato vuol dire che la persona che si trova nelle stesse situazioni di Francesca da Bergamo in ogni caso può essere ancora, come dire, inseguita. Sì, certo. Ecco. Certo, perché tante proprio la natura tributaria del canone. Ecco, Francesca, ma lei sa se colui al quale ha donato l'apparecchio televisivo ha attivato a sua volta un abbonamento? Sì, ha attivato un abbonamento, e quindi io volevo sapere a questo punto se si può richiedere la cancellazione dei miei dati. Oh, ecco, benissimo. Viceconte, può chiederlo? Sicuramente può chiedere la cancellazione dei dati e sicuramente può ricorrere davanti alla commissione tributaria nell'ipotesi in cui dovesse essere destinataria di un avviso di accertamento per il pagamento del canone nel periodo successivo alla disdetta. Ecco, anche perché, giustamente, voglio dire, non si sa mai, nella vita potrebbe, nonostante la signora sia in regola, essere comunque chiamata a dimostrare che lei ha fatto tutti i passi che doveva fare. Ricordiamo che ci sono degli episodi anche, come dire, più gravi. Ad esempio, altra lettera giunta in redazione di Giuseppe Olivieri, che scrive: caro dottor Galullo, che poi sarei io, ma addirittura mi hanno detto che sono passibile di un fermo amministrativo della mia vettura. Io per paura ho di nuovo pagato. Insomma, non sembra un po' eccessivo, Viceconte, questo? Però, e questo è previsto dalla normativa vigente. Certo, cioè, per carità, per carità. Il mancato pagamento di un tributo può determinare il fermo amministrativo. È abbastanza singolare, peraltro, segnalare come tutta la materia è regolamentata da una legge del 38, è la legge 880 del 38, la quale, in caso di inutilizzabilità del mezzo di ricezione audiovisivo, impone al contribuente, all'utente nel caso specifico, di segnalare la circostanza, e il canone potrà non essere più pagato soltanto quando l'amministrazione sigilla il televisore. Ecco, quindi non basta, ad esempio, questo è molto importante, non basta ad esempio che io prenda una bella lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, scriva alla RAI a Torino e dica: attenzione, io il televisore lo tengo spento dalla mattina alla sera, non guardo la TV. Questo non basta. Assolutamente a nulla, non serve assolutamente a nulla, perché l'articolo 10 di questa legge del 38 impone l'attivazione di questo procedimento, che si conclude con l'apposizione dei sigilli. Quindi fino a quel momento è giusto che mi chiedano il canone, il pagamento, il versamento del canone. Ho capito. Ci sono altri casi o altri modi per dire basta, non ne posso più? Direi proprio di no. Ecco, soltanto questi qui, quindi la via che ha seguito. La difficoltà è data dal fatto che, essendo un'imposta e non una tassa, il presupposto impositivo è dato dal possesso del televisore. Benissimo. Allora, anche se si vedono trasmissioni diverse da quelle. Certo, i canali privati. Non ha nessun tipo di importanza o di rilevanza ai fini del pagamento. Benissimo. Allora, io, nel ringraziare i miei ospiti, vi lascio in questo modo e lascio con voi anche Fabio Cantadori in regia e in studio Laura Fagin, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Come sarebbe stato il mondo se la RAI fosse esistita prima? Generale, le truppe sono pronte. Shh, non ci sono per nessuno. Questa puntata è irresistibile. Non sappiamo se le cose sarebbero andate così. Di certo sappiamo che una buona televisione aiuta a vivere meglio. Abbonarsi ad un nuovo anno di intrattenimento costa solo 30 centesimi al giorno. Pronto, Montalbano sono. Buono tu, buona la TV. Buona la TV, buono anche tu.